Certo, dei piccoli piedi e delle spalle perfettamente tornite contribuiscono a dare un'impressione di modi raffinati. E la frase giusta sembra sorprendentemente giusta quando è accompagnata da curve squisite del labbro e del ciglio. E Rosamond sapeva dire la cosa adatta, perché era dotata di quel genere di intelligenza che sa cogliere ogni tono, tranne quello umoristico. Per fortuna non cercava mai di dire una battuta scherzosa, e ciò forse era il segno più chiaro della sua intelligenza. Lydgate e lei si misero presto a conversare, e gli espresse il proprio disappunto per non averla udita cantare 2 giorni prima a Stone Court. L'unico passatempo che si era concesso durante l'ultima parte del suo soggiorno a Parigi era stato di andare ad ascoltare della musica. Avete studiato musica, forse? Chiese Rosamo. No, conosco le note di molti uccelli e conosco molte melodie a orecchio, ma la musica che non conosco assolutamente e di cui non ho la minima idea mi delizia, mi commuove. Com'è stupido il mondo a non approfittare di più di un simile piacere a portata di mano. Sì, e vi accorgerete che Middlemarch è molto stonata. Non c'è nessuno che conosca bene la musica. Conosco solo 2 signori che cantano davvero bene. Suppongo che sia di moda cantare delle canzoni comiche ritmicamente, lasciando uno libero di immaginare la melodia, quasi come se fosse battuta su un tamburo. Avete sentito Mr. Bowyer? Disse Rosamond con uno dei suoi rari sorrisi. Ma stiamo parlando molto male dei nostri vicini. Lydgate si stava quasi scordando di dover continuare la conversazione, al pensiero di com'era bella quella creatura, quell'abito che sembrava ricavato dal più tenue azzurro del cielo, e lei di un biondo così immacolato, come se i petali di qualche fiore gigantesco si fossero appena aperti e l'avessero svelata. Eppure, nonostante quel biondo infantile, mostrava tanta grazia, colma di naturalezza e padronanza di sé. Proprio per il ricordo di Lore, Lydgate aveva perso ogni gusto per il silenzio tutto grandi occhi. L'animale divino non l'attirava più e Rosamond ne era l'esatto contrario. Ma egli si riebbe. Questa sera spero mi farete sentire un po' di musica. Vi farò sentire i miei tentativi, se volete, disse Rosamond. Il babbo certamente insisterà perché canti. Ma davanti a voi tremerò, voi che avete udito le migliori cantanti di Parigi. Io ho sentito molto poco. Sono stata a Londra solo una volta, ma il nostro organista di St. Peter è bravo, io continuo a studiare con lui. Ditemi cosa avete visto a Londra. Ben poco. Una ragazza più ingenua avrebbe detto, oh, tutto, ma Rosamond la pensava diversamente. Qualcuno dei soliti monumenti, quelli a cui si portano sempre le rozze ragazze di provincia. Vi definite una rozza ragazza di provincia? Disse Lydgate guardandola e accentuando involontariamente la propria ammirazione, cosa che fece arrossire Rosamond al piacere. Ma rimase semplicemente seria, girò un po' col lungo collo e sollevò la mano fino a toccarsi le trecce stupende, un gesto per lei abituale, delizioso come un qualsiasi movimento della zampa di un gattino. Con questo non voglio dire che Rosamond fosse minimamente simile a un gattino, era una sifilide catturata da piccola e istruita alla scuola di Mrs. Lemon. Vi assicuro che la mia mente rozza, disse immediatamente. A Middlemarch me la cavo. Non ho paura di parlare con i nostri vecchi vicini. Ma voi mi intimorite veramente. Una donna raffinata ne sa sempre più di noi uomini, sebbene le sue conoscenze siano di un genere diverso. Sono certo che potresti insegnarmi una quantità di cose, come un uccellino stupendo potrebbe insegnare a un orso se avessero una qualche lingua in comune. Fortunatamente vi è una lingua in comune fra uomini e donne. E così gli orsi possono imparare. Ah, ecco Fred che incomincia a strimpellare. Devo andare a impedirgli di non urtarvi tutti i nervi, disse Rosamond spostandosi verso l'altro lato della stanza, dove Fred, dopo aver aperto il piano sul desiderio del padre, affinché Rosamond potesse offrire loro un po' di musica, stava eseguendo nel frattempo ciliegia matura con una mano sola. Talvolta possono fare cose del genere anche gli uomini intelligenti che hanno superato gli esami, non solo Fred il bocciato. Ti prego, Fred, rimanda le tue esercitazioni. A domani. Farei star male Mr. Lydgate, disse Rosamond. Lui ha orecchio. Fred si mise a ridere e proseguì a suonare la sua melodia fino in fondo. Rosamond si voltò verso Lydgate, sorridendo con aria gentile, disse: Vedete? Gli orsi non sempre vogliono che gli si insegni. Allora, Rosie, disse Fred, scattando dallo sgabello e alzandolo, facendolo ruotare per adattarlo all'altezza di lei, con la schietta speranza di divertirsi. Qualche bella melodia animata, prima? Rosamond suonava in modo ammirevole. Il suo maestro, alla scuola di Mrs. Lemon, vicino a un capoluogo di contea con una storia memorabile, i cui resti erano rappresentati dalla chiesa del castello, era uno di quegli eccellenti professionisti che si possono trovare qua e là nelle nostre province, degni di essere paragonati a molti noti Kapellmeister di un paese che offre condizioni più favorevoli alla celebrità musicale. Rosamond, con l'istinto dell'esecutrice, si era impossessata del suo modo di suonare e ripeteva la sua esecuzione ariosa di una musica maestosa con la precisione di una eco. Un'anima nascosta sembrava emanasse dalle dita di Rosamond, e infatti era così, poiché le anime continuano a vivere in echi perpetui e in ogni espressione raffinata vi è in qualche modo un'attività creativa, anche se solo quella di un interprete. Lydgate fu preso prigioniero e cominciò a credere in lei come in qualcosa di eccezionale. Dopotutto, egli pensò, uno non si deve sorprendere di trovare le rare coincidenze della natura in condizioni apparentemente sfavorevoli. Da qualunque parte vengano, dipendono sempre da condizioni che non sono ovvie. Restò seduto a guardarla e non si alzò per farle alcun complimento, lasciando che glieli facessero gli altri, ora che la sua ammirazione era divenuta più intensa. Nel canto fu meno eccezionale, ma anche qui era ben preparata e dolce a udirsi come uno scampanio perfettamente intonato. È vero che cantò Incontrarmi al chiar di luna e ho vagato. I mortali devono seguire le mode del loro tempo e nessuno, tranne gli antichi, può essere sempre classico. Ma Rosamond sapeva anche cantare Susanna dagli occhi neri con una certa passione, o le canzonette di Haydn, oppure voi che sapete, o Batti Batti. Desiderava solo saper cosa gradivano i suoi ascoltatori. Il padre si girò intorno a guardare la brigata, contento dell'ammirazione. La madre sedeva, come una niobe prima dei suoi affanni, con la figlia più piccola sul grembo, battendo dolcemente verso l'alto, verso il basso, le mani della bimba al tempo della musica. E Fred, nonostante il suo scetticismo generale verso Rosie, ascoltò la musica con perfetta devozione, augurandosi di poter fare la stessa cosa sul proprio flauto. Era la più piacevole festa in famiglia che Lydgate avesse visto da quando era giunto a Middlemarch. I Vincy possedevano quella volontà di godere, quel rifiuto di ogni angoscia e la fiducia che la vita fosse un allegro destino, che rendevano eccezionale una casa nella maggior parte delle città di provincia a quei tempi, quando la dottrina evangelica aveva proiettato un certo sospetto, come se si trattasse di un'infezione pestilenziale sui pochi divertimenti che erano sopravvissuti nella provincia. Dai Vincy si giocava sempre a whist e ora i tavoli da gioco erano pronti, suscitando segretamente una certa insofferenza per la musica in qualcuno della brigata. Prima che questa cessasse, entrò Mr. Fairbrother, un bell'uomo, dal petto largo ma basso di statura, di circa 40 anni, la cui veste nera era assai logora. La brillantezza stava tutta nei vivaci occhi grigi. Giunse come un gradito cambiamento di luce, fermando con paroline paterne la piccola Luisa mentre veniva condotta fuori della stanza da Miss Morgan, salutando ognuno con una qualche parola particolare e dando l'impressione di condensare in 10 minuti più discorsi di quanti se ne fossero fatti in tutta la serata. Pretese da Lydgate che mantenesse la promessa di andarlo a trovare. Non posso lasciarvi andare, capite? Perché ho qualche scarabeo da mostrarvi. Noi collezionisti proviamo interesse per ogni nuovo venuto finché non ha visto tutto quello che abbiamo da mostrargli. A ben presto si girò verso il tavolo del whist, sfregandosi le mani dicendo: Andiamo, ora facciamo le persone serie. Mr. Lydgate, non giocate? Ah, siete troppo giovane e frivolo per questo genere di cose. Lydgate si disse che il prete e le cui doti erano così sgradite a Mr. Bulstrode, sembrava aver trovato un luogo di ritrovo piacevole in questa casa certamente non erudita. In parte poteva capirlo, il buon umore, il bell'aspetto di giovani e anziani e la maniera di passare il tempo senza alcuna fatica intellettuale potevano rendere la casa divertente per le persone che non avevano nulla di particolare da fare durante le loro ore libere. Tutto sembrava florido e gioioso, tranne Miss Morgan, che era bruna, depressa e rassegnata e tutto sommato, come Mrs. Vincy diceva spesso, proprio la persona adatta a fare l'istitutrice. Lydgate non si proponeva neppure lui di fare molte visite del genere, rappresentavano un disgraziato spreco di serate e ora, dopo aver parlato un altro po' con Rosamond, intendeva congedarsi e andarsene. Non vi piaceremo noi di Middlemarch, ne sono certa, lei disse quando fu stabilito chi doveva giocare a whist. Siamo molto stupidi e voi siete stato abituato a qualcosa di assai diverso. Suppongo che tutte le città di provincia siano più o meno simili, disse Lydgate, ma ho notato che uno crede sempre che la propria città sia più stupida di qualsiasi altra. Ho deciso di prendermi del marcio come viene e sarò assai grato se la città mi prenderà allo stesso modo. Certo, vi ho trovato certe attrattive, che sono molto più interessanti di quanto mi fossi aspettato. Volete dire le cavalcate verso Tipton e Lowick? Quelle piacciono a tutti, disse Rosamond con semplicità. No, alludo a qualcosa di molto più vicino a me. Rosamond si alzò e allungò le mani verso il suo lavoro a rete, poi disse: Vi piace ballare? Non sono del tutto certa che gli uomini intelligenti ballino mai. Ballerei con voi se me lo concedeste, fece Rosamond con una piccola risata di disapprovazione. Intendevo solo dire che qualche volta diamo delle feste da ballo e volevo sapere se vi sentireste insultato qualora foste invitato. Alla condizione che vi ho detto, no. Dopo questa chiacchierata, Lydgate pensò di andarsene, ma muovendo verso i tavoli da whist rimase interessato a guardare il gioco di Mr. Fairbrother, che era magistrale, e anche la sua faccia, che era un misto sorprendente di sagacia e di mitezza. Alle 10 fu portata la cena. Tali erano le abitudini di Middlemarch e si beve del punch, ma Mr. Fairbrother prese solo un bicchiere d'acqua. Stava vincendo, ma sembrava che non ci fosse alcun motivo perché non si dovesse ricominciare il giro di partite e Lydgate alla fine si congedò. Ma poiché non erano ancora le 11, preferì camminare nell'aria pungente alla volta della torre di St. Botolph, la chiesa di Mr. Fairbrother che si levava scura, quadrata e massiccia contro il cielo stellato. Era la chiesa più antica di Middlemarch, ma la prebenda ammontava soltanto a 400 sterline l'anno scarse. Lydgate l'aveva sentito dire e ora si chiese se a Mr. Fairbrother non interessasse il denaro che vinceva giocando a carte, pensò. Sembra un tipo molto simpatico, ma Bulstrode può darsi che abbia i suoi buoni motivi. Molte cose sarebbero risultate più facili a Lydgate se Mr. Bulstrode si fosse rivelato in generale giustificato. Cosa mi importa della sua dottrina religiosa se assieme ad essa si porta dietro qualche buona idea? Bisogna servirsi di quelle menti che si possono trovare. Queste furono in realtà le prime riflessioni di Lydgate mentre si allontanava dalla casa dei Vincey e in base a ciò temo che molte signore lo considereranno scarsamente degno della loro attenzione. Pensò a Rosamond e alla sua musica solo in un secondo tempo e sebbene si soffermasse sull'immagine di lei, quando giunse il suo turno, per il resto della passeggiata egli non avvertì alcuna agitazione e non ebbe alcun sentore che la sua vita avesse imboccato un nuovo corso. Non si poteva ancora sposare, desiderava non sposarsi per diversi anni ancora e quindi non era pronto a prendere in considerazione l'idea di essere innamorato di una ragazza che gli accadeva di ammirare. E sì che ammirava Rosamond al massimo grado. Ma quella follia da cui un tempo era stato travolto per loro non era probabile, così pensava, che si ripetesse per nessun'altra donna. Certo, se mai avesse pensato di innamorarsi, la cosa sarebbe stata assolutamente sicura con una creatura come quella di Miss Vincey, che possedeva proprio il genere di intelligenza che un uomo avrebbe desiderato in una donna, lucida, raffinata, docile, che si prestava alla perfezione in tutte le cose squisite della vita. E custodita gelosamente in un corpo che esprimeva ciò con un'evidenza così persuasiva che escludeva la necessità di ricorrere ad altre prove. Lydgate si sentiva certo che se mai si fosse sposato, sua moglie avrebbe avuto quel fulgore femminile, quel fascino distintivo che va classificato insieme ai fiori e alla musica, quel genere di bellezza che per propria natura è virtuosa, plasmata solo per gioie pure raffinate. Ma dato che non intendeva sposarsi nei 5 anni successivi, la sua occupazione più pressante era di dare un'occhiata al nuovo libro, I Luisa sulla febbre, che gli interessava in modo particolare perché aveva conosciuto Luisa a Parigi e aveva seguito molte dimostrazioni di anatomia allo scopo di constatare le differenze specifiche fra tifo e febbre tifoidea. Andò a casa e lesse fino alle ore piccole, applicando a questo studio di patologie un'attenzione dei dettagli e dei rapporti assai più severa di quanto avesse mai pensato necessario dedicare alle complessità dell'amore e del matrimonio. dal momento che questi erano soggetti su cui si sentiva ampiamente informato dalla letteratura e da quella saggezza tradizionale che viene tramandata nelle gioviali conversazioni fra uomini. Invece la febbre aveva presupposti oscuri e lo obbligava a quel delizioso lavorio dell'immaginazione che non è semplice capriccio, ma l'esercizio di una capacità disciplinata che combina e costruisce con la massima attenzione alle probabilità e obbedienza al sapere. E poi, in un'unione ancora più vigorosa con la natura imparziale, si tiene a distanza per inventare esperimenti tramite i quali saggiare la propria opera. A molti uomini è stata attribuita una fervida immaginazione, basandosi sull'abbondanza di disegni mediocri o di narrazioni scadenti, resoconti di discorsi assai inadeguati che avvengono in sfere lontane, oppure ritratti di Lucifero che discende per perpetrare le sue malvagie imprese come un uomo enorme, repellente, con ali da pipistrello e zampilli fosforescenti, o un'esagerata licenziosità che sembra il riflesso della vita in un sogno malato. Ma questo genere di ispirazioni, Lydgate, le considerava assai volgari ed avvinazzati se paragonate alle immaginazioni che rivela processi impercettibili, inaccessibili a qualsiasi tipo di lente, ma rintracciati in quella oscurità esterna attraverso i lunghi sentieri di una sequenza necessaria. Da quella luce interiore che è l'ultima raffinatezza dell'energia, capace di tuffarne il suo spazio idealmente illuminato anche gli atomi eterei. Egli, per parte sua, aveva scartato ogni invenzione dozzinale nella quale l'ignoranza si trova forte e a proprio agio, ed innamorato di quell'ardua scoperta che è il vero centro della ricerca, la quale formula provvisoriamente il proprio oggetto e lo corregge secondo un'esattezza di rapporti sempre maggiore. Voleva sfondare l'oscurità di quei processi minimi che sono la preparazione dell'infelicità e della gioia umane, quelle strade invisibili che sono i primi luoghi in cui si annidano l'angoscia, la mania, il delitto, quell'equilibrio e quel passaggio delicati che determinano lo sviluppo di una coscienza felice o infelice. Mentre posava il libro, distendeva le gambe verso le braccia del focolare e intrecciava le mani dietro il capo, in quel piacevole residuo di eccitazione durante il quale il pensiero passa dall'esame di un oggetto specifico a una sensazione diffusa dei suoi rapporti con tutto il resto della nostra esistenza. Sembra, per così dire, che si rivolti sulla schiena dopo una vigorosa nuotata e galleggi nel riposo di un'energia inesausta. Lydgate provò un piacere trionfante per i propri studi e qualcosa di simile alla compassione per quegli uomini meno fortunati che non appartenevano alla sua professione. Se non avessi scelto questo indirizzo quando ero un ragazzo, pensò, forse mi sarei trovato a svolgere qualche stupido lavoro da cavallo da soma e sarei sempre vissuto con i paraocchi. Non mi avrebbe soddisfatto nessuna professione che non richiedesse il più alto sforzo intellettuale, pur facendomi sentire il buon caldo contatto dei miei simili. Per questo nulla è pari alla professione medica. Si può avere una vita esclusivamente scientifica, che guarda lontano e anche fare amicizia con i vecchi Matusalemme della parrocchia. Per un prete è un po' più arduo. Fairbrother mi sembra un'eccezione. Quest'ultimo pensiero gli ricordò Vinci e tutte le scene della serata. Gli fluttuavano nella mente assai gradite e mentre sollevava la candela le sue labbra erano incurvate da quell'incipiente sorriso che tende ad accompagnare i ricordi piacevoli. Era una persona ardente, ma al momento il suo ardore era assorbito dall'amore per il proprio lavoro e dall'ambizione di far apprezzare la propria vita in quanto fattore decisivo per il miglioramento dell'umanità, come altri eroi della scienza che non ebbero nulla, tranne un'oscura attività di provincia da cui partire. Povero Lydgate, o devo dire povera Rosamond. Ciascuno viveva in un mondo di cui l'altro non sapeva nulla. Non era passato per la mente a Lydgate di essere stato oggetto di ardente meditazione da parte di Rosamond, la quale non aveva alcuna ragione per proiettare il proprio matrimonio in una prospettiva lontana, né alcuno studio di patologie che le distraesse la mente da quell'abitudine a ruminare i propri pensieri, quella ripetizione mentale di sguardi, parole, frasi, che costituisce una parte assai consistente della vita della maggior parte delle ragazze. Egli non aveva inteso guardarla o parlarle altro che con l'inevitabile dose di ammirazione e di complimenti che un uomo deve tributare a una stupenda fanciulla. In effetti gli sembrava che il piacere che le aveva dato l'esecuzione musicale di lei fosse rimasto quasi muto, perché temeva di commettere la villania e di mostrarsi assai sorpreso dalla sua padronanza di una simile capacità. Ma Rosamond aveva tenuto conto di ogni sguardo e di ogni parola e li considerava i primi incidenti di un idillio premeditato, incidenti che acquistano valore dallo sviluppo e dal culmine previsti. Nell'idillio di Rosamond non era necessario immaginare molto della vita interiore dell'eroe o della sua importante attività nel mondo. Naturalmente aveva una professione ed era intelligente, oltre che abbastanza bello. Ma l'elemento di spicco in Lydgate erano i suoi lustri natali, che lo distinguevano da tutti gli ammiratori di Middlemarch e presentavano il matrimonio come una prospettiva di ascesa sociale e di avvicinamento un po' maggiore a quella condizione celestiale sulla Terra, in cui non avrebbe avuto nulla a che fare con della gente volgare, e forse infine avrebbe avuto dei parenti del tutto all'altezza dei personaggi della contea che guardavano dall'alto in basso gli abitanti di Middlemarch. Faceva parte dell'intelligenza di Rosamond distinguere assai abilmente il più tenue aroma del rango, e una volta in cui aveva visto le signorine Brooke accompagnare il loro zio alle assise della contea e sedere fra l'aristocrazia, le aveva invidiate nonostante il loro vestire dimesso. Se pensate incredibile che il solo immaginare Lydgate nelle vesti di un uomo tutto casa e famiglia potesse provocare in Rosamond fremiti di soddisfazione che avessero un qualche rapporto con la sensazione di essere innamorate di lui, vi chiederò di ricorrere alla vostra capacità di confronto in modo un po' più efficace e considerare se un abito rosso e delle spalline non abbiano mai avuto un ascendente di quel genere. Le nostre passioni non vivono l'una separata dall'altra, in camere serrate a chiave, ma rivestite del loro modesto guardaroba di idee, portano i loro viveri a un tavolo comune e mangiano assieme, nutrendosi delle provviste comuni a seconda del loro appetito. Rosamond, in effetti, era del tutto presa non proprio da Tertius Lydgate come era in sé, ma dal suo rapporto con lei. Ed era cosa scusabile in una ragazza abituata a sentir dire che tutti i giovanotti avrebbero potuto, potevano, si sarebbero o in realtà erano innamorati di lei. Credere subito che Lydgate non poteva costituire un'eccezione. I suoi sguardi e le sue parole per lei significavano di più di quelli degli altri uomini, perché le stavano maggiormente a cuore. Pensava ad essi coscienziosamente e coscienziosamente si applicava quella perfezione di aspetto, comportamento, sentimenti e tutte le altre grazie che avrebbero trovato il Lydgate un ammiratore più adatto di quanto ne fosse stata finora consapevole. Infatti Rosamond, sebbene non volesse mai fare alcunché di sgradito, era operosa e ora più che mai si dava da fare a eseguire schizzi di paesaggi e carretti del mercato, ritratti di amici, a esercitarsi nella musica e essere dal mattino alla sera il modello di una perfetta dama, avendo sempre presente un pubblico alla propria coscienza, talvolta con la non sgradita aggiunta di un pubblico esterno più eterogeneo, consistente nei numerosi visitatori della casa. Trovava anche il tempo di leggere i migliori romanzi e addirittura i migliori fra quelli di secondo ordine e sapeva molte poesie a memoria. Il suo poemetto preferito era Lalla Rookh. La miglior razza del mondo sarà un uomo felice chi se la prende, pensavano gli anziani signori che visitavano casa Vincy, e i giovanotti respinti meditavano di ritentare, come di moda nelle città di provincia, dove l'orizzonte non pullula di rivali in arrivo. Ma Mrs. Plimdale era dell'opinione che Rosamond avesse ricevuto un livello assurdo di istruzione. Perché a cosa servivano quelle capacità che sarebbero state tutte messe da parte appena si fosse sposata? Mentre sua zia Bulstrode, la quale era legata alla famiglia del fratello da una lealtà degna di una sorella, per Rosamond si augurava sinceramente due cose: che mostrasse un atteggiamento mentale più serio e che incontrasse un marito le cui sostanze andassero d'accordo con l'abituale tenore di vita di lei.